do il benvenuto in Italia, il paese di chi non ci mette mai la faccia. Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta. Non di tutto quello che gli manca, non ci penso e faccio oh oh oh oh oh. Qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me. All'intervista non rispondo oh oh oh. Come al cellulare se mi chiama la mia ex. Tu chiama la polizia, ehi. Dicono che è colpa mia, ehi, ma nelle tasche non ho nulla, giuro tenente, nulla tenente, adesso tutto quello che mi serve. Qua tutti puntano il dito, mademoiselle, perché fumo, perché bevo, perché spendo sto cash. E anche chi ti sorrideva adesso non è tuo friend, perché vuole ciò che hai, tenerlo tutto per sé. Non ci penso e faccio oh oh oh oh oh. Oh oh oh, io non ci penso e faccio oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Mamma non ti preoccupare della censura, questo sembra scemo, sembra che non arriva all'uva. La mia faccia in copertina solo per copertura, un esorcista ha detto che gli faccio paura. Ma qui è la stessa storia da anni e mi fai quasi pensare io fumo e tu ti sballi. E no, non voglio dire nulla di sbagliato, ma anche se non dici nulla qua comunque ti sbagli. E chiamano la polizia, ehi, dicono che è colpa mia, ehi, ma nelle tasche non ho nulla, giuro tenente, nulla tenente, adesso tutto quello che mi serve. Qua tutti puntano il dito, mademoiselle, perché fumo, perché bevo, perché spendo sto cash. E anche chi ti sorrideva adesso non è tuo friend, perché vuole ciò che hai, tenerlo tutto per sé. Non ci penso e faccio oh oh oh.